chiare. Dilla che tira punta la dea, punta la dea. Giada torre di sentara vale cave. Ore nici torre curie, torre curie. Ore monte anu voce che tu ave. Oh,